si può dire la giornata della tanta, l'altra si sarà rovinata rimanendo ferma la sono tutte e due nuove, pensate, non ho tempo di nulla. E anche io, Roberto, ho abbandonato, c'ho la Sani, ho come telecamera normale, come digitale c'ho sempre la Canon. Ho li abbandonati sia la telecamera normale che la macchina fotografica, li ho abbandonati tutti e due. La videocamera me l'ha proprio aggiustata Vittorio, la Canon, quando le tiene ferme più di 3 mesi, infatti ne avevano una quarantina quando sono andato io, rovinano dei condensatori, hanno dei piccoli condensatori, perdono le capacità e ti crea problemi la telecamera, ti diventa uno schermo bianco. Io quando l'avevo presa io portavo un'esagerazione perché erano appena uscite le video 8, le video 8 e 6 wifi, ma via tutto tanto con la telecamera. Poi a fare male dopo si sono dimezzati i prezzi di quella videocamera, così con la digitale, quando l'ho presa io la digitale costava il barile, non barile 700-800, no, me lo sto dicendo, torna a 900 euro, però a 300 euro te la tirano la faccia, così così. Io l'ho pagato stesso così, anche la macchina fotografica l'ho pagato così. Avevo preso dei migliori che c'erano, perché le tante voglio, le prendiamo buone o non le chiedevo. Tanto queste qui sono cose, non è che le stai sempre cambiando, le devi prendere una buona per tutto. E per fortuna, guarda, quella che ho preso la Canon, la Manuela deve essere decaduta e non ha detto niente, sono andato a accenderla, perché come accendi zoom, no? E poi tu, e poi si regola da solo, è uscito l'obiettivo fuori, e l'ho rimandata a casa e me l'hanno praticamente cambiata. Ma pagando? No, era in garanzia ancora per fortuna. Andate allora, perché per le cadute non rientrano la garanzia. Non si vedeva che era caduta, sicuramente ha preso un po', come si ha messo? Comunque si riuscite a mettere, a tendire, tutto qua. Ma no, io purtroppo adesso l'ho fatto troppe volte le fesserie, iniziamo con la Canon, quando l'ho presa costava un'esagerazione, però mi piaceva il video 8, era il sistema all'avanguardia, era giubilanda, di un anno e mezzo costavano la metà, così con le digitali, appena l'ho presa io ce l'avrò, ma ti posso dire, digitale ce l'avrò da 2000, erano appena uscite, costavano un bel di soldi, la stessa cosa. Ma ho comprato il DVD recorder un 5 anni fa, non l'ho mai trattato, lo uso solo per vedere i DVD, mai usato, mai registrato, guarda che con la faccia, quando l'ho preso io costava un bel di soldi. Quindi la fortuna mia che a me piacciono le cose, le novità, quando le copia dito costano un bel di soldi, adesso la videocamera è assurdo, da prendere da 900 euro con il coso, con la cassetta digitale, adesso sto restando con la disca a 300 euro. Io ce l'ho con l'hard disk stesso. E con la che ho preso io la Sanyo costava 1.200.000 lire, l'avevo presa la CM elettronica a Porto Torres. Io la Canon l'avevo presa da un negozio, ti ricordi, scatta quando aveva la piazzetta, aveva ben aperto, c'era quella specie di succursale, che poi è fallito, lì c'era un altro fallino, un sacco di storie, che vendeva le belle, la messa in sottocosto, lì l'avevo presa. No, io l'avevo presa la CM elettronica. E mi si era praticamente consumata la batteria, se no te l'ho comprata doppia, perché quella mia c'era di bello che ce l'aveva esterna, quindi ne potevi mettere anche più grandi le batterie. Quella doppia durava e a voglia. Sì, anche la Canon era così, avevo messo la batteria maggiorata, perché poi alla fine si esauriva, una volta che erano quelle incaricate perdevano di cose, di capacità col tempo, avevo messo quelle volte maggiorate, però era un mal ragione. Adesso c'è questa Panasonic che c'è quella batteria e che ha quella dimensione di due dita, microscopica, a litio, e io ne di litio, ma c'è un'autonomia allucinante, vabbè. Adesso poi ci sono quelle con hardisk che ancora non hanno motori, non hanno niente, durano ancora di più le cose, le autonomie delle cose, delle videocamere. Io guarda, ne ho trovato di macchina digitale fotografica, una città mercato, l'avevo pagata a 150 euro. C'erano delle foto bellissime, però non duravano le batterie. Ma ci sono quelle che ce le metti tu le batterie e le devo mettere quelle di dura, eccetera, oppure queste a litio, per fare preso io ho le batterie a litio, per certi versi è utile perché non hai bisogno di comprare le batterie, però se te le metti in carica la vai, devi fare una ripresa delle immagini, infatti quello mi ha detto stai attento perché non è la prima volta che uno è convinto a guardare la telecamera, la fotocamera carica, poi vai lì e non ci puoi mettere le batterie perché sono di quelle quadrate, no? Mentre le soli puoi mettere sia quelle a litio a forma di stilo oppure le dura, cioè per cui te le puoi portare di scorta, però te la fanno pagare molto di più a parità di prestazioni la fotocamera. Con la mia Canon si possono mettere, però nella fotocamera si possono mettere quella da 1,5, praticamente vestito là, vestito normale, tanto riprende. Senti, appagliamo. No, se riprende pure. Lo discorso. Chi è tratto? Chi è avanti? più che lo segnale blu, io è inconfondibile. Centro di banda arriva esattamente al centro dello strumento, per cui non mi puoi buttare. Non arriva al centro di banda. Al centro di Smitter qua, arrivi. Un po' di più là del centro di Smitter. Sì, cavolo, ma cos'è arrivo allora? Marco? Sì, a cos'è arrivo allora? No, ora non è neanche a 3, qua c'è 9:10, sta arrivando. Se 9:10 ho già lo Smitter. Ma lo Smitter è 9:60 al fondo scala qua. Ma lo giro, no? Via. Andava, andava. Ma prima non era... Non era cosa, come si chiama? Non era, non arrivi a 9:20 prima. Ehi, ah, 9:20 no. Ok, book, con qualche altro apparato, con questo no. Cazzo, amico, me lo ricordo bene. Beh, forse col faccio, direi che quello è un po' più generoso, con questo no. Ma poi, questo si chiama Andagiano. Sei andato su Ibero, beh, in questo periodo? Sì, di suscita, perché? C'è un alimentatore 40 ampere della ZG 90 euro. Se ti posso vedere che sono 500 euro già, non c'è la ampere, 60 ampere, pagando 80 euro. Se lo vedi ti mette le mani in testa. Nuovo? No, usato. Però tieni presente questo alimentatore, praticamente cioè, considerando le cose che può dare, i transistor che hanno montato, ci sono 7 transistor, teoricamente può dare oltre 90 ampere. Però è stato calcolato per far lavorare 24 ore su 24, per cui l'hanno ridotto un pochettino, cioè l'hanno sovradimensionato. C'ha 7 transistor che ognuno può dare più di cosa, aspetta quante ampere dare. Se diciamo per arrivare a 90 ampere quanto viene, più di 10 ampere l'uno, ognuno di questi transistor finali. Ma è grande allora. Non ha ragione, infatti l'ho messo sotto, ma è enorme. Ce ne manco, però io quando lo spengo già, perché adesso sto usando questo grande, quando lo spengo ci vogliono più di 5 minuti prima di abbassarsi la spia del LED. Tanto mi piace abbassarsi. Che accumula corrente. Ascolta, che marca è? Aspetta, te lo dico un attimo. Ma sta sentendo apparecchio che tu dal mondo. Ecco, è una ditta che costruisce alimentatori professionali. Addirittura io ho provato a fare la prova, però non lo voglio più, cioè faccio l'apparecchio. Lo è spento, attacco l'apparecchio grande, me lo fa accendere, pochi secondi però lo accende. Figurati che ha condensatore là dentro. C'è un trasformatore, già se lo vedi, 20 kg, è una bestia questo affare. Strumenti, ne? C'ha due strumenti, c'ha il voltmetro e il wattmetro. Sì, mi cacchio il wattmetro. E il voltmetro e l'amperometro. Illuminati. Sì, sto dicendo enorme, senza vetro e niente, è sovradimensionato. Questi fattori, no? Guarda, la parte di dietro, tu c'hai presente la grandezza di un 440 già, il frontale? Sì, più o meno sì, non l'ho mai avuto, ma non so come. Tu fatti il conto, più largo del 440 e più alto del 440 di altezza. In profondità è due volte tanto, dietro è tutto dissipatore, cioè tutta la parte posteriore è dissipatore. Ma pure in movimento, cioè tu vedi la lancetta nel manco, cioè quando accendi con certi alimentatori un po' la luce la base, io sono così in movimento. Secondo me ha fatto male a metterlo sotto, deve avere un punto areggiato, non ve lo rimetto la ventolina per aria forzata. Ah, ti sto dicendo che neanche si muove, e ciò come me in terra, io sono una specie di, ho fatto una fare a ripiani, ho la scrivania e poi sopra ci sono i ripiani, tipo, come si chiama, con i piedi, le ho messo tre ripiani sopra, e c'è un altro di questi ripiani sotto, alla testa dei piedi, dove poggio i piedi, rimane da terra deve dare, diciamo, 15 centimetri, però dietro è tutto libero, l'aria non c'è problema, ma ti sto dicendo, già, che neanche si muove, cioè, non c'è nessuna, se tu lo tocchi dietro, anche se gli dai tutta piena potenza, a cosa neanche lo muove, cioè il dissipatore è freddo, perché ti ho detto i finali ne ha 7, tirano più di, mi sembra 12 ampere l'uno quel coso, quel transistor. Quello ci sono. Quello lì c'ha la lampada di raffreddamento, c'ha i dissipatori, per quello che non scalda. Guarda, io sono provato da 25 ampere continui, 30 ampere, anche 30 ampere arrivava, però ogni tanto attaccavano nel vento, nel coso, ma era proprio al limite quando per me dovevi fare qualcosa di importante. Con Gifford ti sto dicendo già, neanche si muove. Le lancette, cioè tu, quando c'è un po' di assorbimento, le lancette non possono per abbassare le luci, questo non mi va di nulla. E quanto hai pagato di trasporto, 20 kg? Questo è arrivato da Cagliari, mi hanno fatto arrivare, mi pare 10 euro di cose. Per esempio, quando è arrivato mi gioca sul sale, perché in fotografia mi ha detto, guarda che è un bel grande. No, no, scusa, non da Cagliari, questo è arrivato da Torino. Da Cagliari avevo fatto arrivare un'altra cosa, non c'entra niente. Da Torino è arrivato. Mi ha detto, guarda che è un bel grande, io lo usavo. avevo, non so che lineari ci aveva questo tipo, detto, no, io non ho problemi di lineari, non è uso. Ecco, guarda, io si attaccavo non so che cosa, io sono tipo quei caricabatterie di macchine grandi, li hai mai visti tu, quelli professionali, una cosa del genere. Sì, io ho capito. Poi diciamo di protezioni, una poche di malassorti. E beh, l'ha detto così poco, che pazzo. C'aveva anche apparati, baracchini, lineari, questo qua. Se l'aveva lasciato il numero di telefono, guarda, se ti interessa qualcosa. Un animatore era questo. Sì, solitamente lo usavo per apparecchi grossi. Quindi... Mi danno qualche negozio di sassa, di questo lo fanno pagare minimo 600 euro. Si ti va, non lo so. Allora, io quando lo accendo già, c'è l'interruttore della tensione. Se io non lo accendo piano, si sente proprio... Ma tipo quando c'è una molla, c'hai presente tu quei vecchi in coso valvolari che fai proprio il contraccolpo ti dà la carica dei condensatori, infatti devo accendere l'interruttore piano o devo accompagnare, se do il colpo a libera tutto quanto la cosa, dalla corrente che c'è. Non so, faceva anche il mio così. Ma ha ragione, infatti l'ho messo sotto, non ci riesce a tenerlo con le mani, pesa 20 kg, cioè non è rubato in una scrivania, l'ho messo in un angolo. Sotto, cioè in modo che non tocchi niente a nessuno, perché se no devi stare attento. Lì ci sono i condensatori, ti bilirate qualche scosso pure se non stai attento. E infatti anche i televisori consigliano sempre prima di aprirli di stare attenti perché accumulano corrente e potrebbero darti la scossa. Vabbè, i televisori ci sono migliaia di volte diverso, però qua il condensatore, almeno quello grosso, quello della 220, già ti può far male, dai. Non dico che ti ammazza, però. Che scossicina da trappola del televisore, magari sono migliaia di volte ti bruci pure, magari non muri, ma ti bruci le dita. E tra la cinescopio di lì arrivano tensioni 5, 6.000, 10.000 volte, dipende dal televisore. Una volta mi si era rotto l'alimentatore, e rosa verde, non so se l'hai sentito nominare, un CB di Sassa, e mi aveva detto, guarda, te lo presto io se vuoi, ce n'è uno autocostruito, però ancora non ho trovato la scatola per sopra, è scoperto, devi stare attento a non toccare niente dentro, e poi il resto funziona bene. Prendo, meno male non ho attaccato il baracchino, ho attaccato solo la presa, boom, mi è scoppiato, attaccato un altro, la scossa mi ha fatto la mano nera. Che anche figa di tu. Non l'ho aggiunto, l'ho aggiunto un razzo, ho detto che l'ho usato, vabbè, ciao. Devi stare un bel attento alle valvole, se c'è amplificatore valvolare, di lì sì che ci sono tensioni che muoiono a massa 400 volte, di lì sì che devi stare un bel attento. Le valvole accumulano molto, non so, è una gara. Comunque ha fatto dei belli affari più su internet. Già, non per vantarmi, ma tutto quello che ho comprato ha funzionato tutto, non ne ho mai preso di bidonate. Tutto va, adesso ti faccio, ecco, io qua davanti ti dico cosa ti ho comprato. L'Intec, l'ho preso su internet, l'ho pagato su un centinaio di euro, 120 euro, finito, il Multicom, la casa di base, era una bomba, visto. Faccia, 110 euro con trasporto, me l'ha preso Luca Flipper, e va benissimo. C'aveva quel problemino, il problema delle lucette, ma si è rimesso a posto. Poi, ha tornato le antenne, mi pare di pagare 30 euro, il GM1000, lo stesso, e va bene. L'unica cosa che mai l'ho pagato un po', il preamplificatore dell'antenna, che è una cagata, non vale niente, l'ho preso lì. Poi l'ho preso il, cavolo si chiama, l'AR3000, fatto scambio con uno, gli ho dato un apparecchio che c'avevo io, ho aggiunto soldi, e ho fatto un buon affare. Poi ho preso ho preso la Donis, forse il migliore affare è stato la Donis, l'ho preso, l'ha venduto a un prezzo allucinante, nuovo di scatola, il microfono. Poi ho preso un'altra Donis, ma avevano dato, lo stesso, vabbè, quello ho preso una centinaia, il Tanner, lo stesso che funziona bene, l'ho giubilato, vabbè, tutti e due gli alimentatori. Ti è presente che il primo degli alimentatori, quello da 30 anni, l'ho pagato quanto questo da 60. Ma non lo stesso prezzo, ma ne manco visino, cioè questo non c'ha niente, non c'ha niente. Vabbè, ma il suo lavoro lo fa lo stesso, quelli switching che avrei preso, no? No, il switching mi ha mai preso io, l'ho preso per altre persone, no, non mi piace, il switching danno problemi. È inutile dirlo, girarlo, devi prendere il switching di centinaia di euro per non avere problemi, però alla fine poi ti si facciano essere rapidi. Questi qua sono molto più robusti, magari saranno più ingombranti, tutto quello che vuoi, però le fasi di corrente, sovraccarichi, di cose particolari resistono di più. Dai computer, quanti se ne facciano di alimentatori? Se ne rompono vicino, il problema dei computer sono gli alimentatori. Allora, i supplenti degli altri o non è semplice, secondo te? Non è che non ne serve, però creano problemi di rientri di radiofrequenza perché non c'hanno filtranti, come concezione c'hanno un problema di rientri perché c'è una frequenza interna, lavorano non so su che frequenza che si può fare i problemi sull'alimentazione, cioè sull'apparato. E poi prova a dargli, per dire, se ne chiedi 20, se te ne dà 20 e ne chiedi 25, cosa ti succede? Tu prova a fare una prova, Antu, e poi mi torna la risposta. No, non è vero, il nostro funziona benissimo. Il mio funziona bene, no, non ne ho di questi problemi. Vanno bene, no, non mi hanno mai creato problemi. Io non lo so se a qualcun altro gli ha creato problemi. Oggi uno non è a sentire quello che dice la gente, uno è a provarlo, usarlo tutto quanto. Io ti dico una cosa, tu va bene, lo usi con 5 watt, tu prova gente che lo usa con potenza, che chiede, per dire, quelli che hanno un cable e che attaccano, che assumono 20-25 ampere, e ne metti uno da 20-25 ampere e prova a parlare per ore intere, e poi nel tempo mi dirai se ti si crepa. Lo so, quanta gente conosco che mi si è crepato, inizia a ronzare, a dare in decadimento di prestazioni e alla fine devi abbassare la potenza se vuoi farlo funzionare. Mentre questo è il trasformatore, grossi problemi non te ne hanno, al limite ti scalda un pochettino, te ne accorgi di tutto. Questo è stato testato proprio su cable 240 e tutti i tipi di cable. C'ha i filtri contro l'RF, poi c'ha il contro l'inversione e polarità, e c'ha 28 di picco massimo. Ci credo, io lo sto dicendo, come tecnologia è grande, un rendimento grande di gran lunga superiore a quelli a trasformatore, non posso dire il contrario, però ti sto dicendo, in radiofrequenza bisogna usare altri tipi di cose, che non c'è un super alimentatore di quelli switching che costano centinaia e centinaia di euro, a quel punto si può vedere, però stiamo parlando di alimentatori normali da 40-50 euro, non pretendere che ti dia la luna. Confrontato con un alimentatore da trasformatore a parità di potenza, non c'è, secondo me non c'è confronto. Poi già te ne accorgi, gli impianti di alta parità che non usano alimentatori switching, usano sempre il trasformatore, al limite toroidali, i grossi lineari raramente ne vedi di switching, usano sempre il trasformatore. Io ti dico che questo è testato proprio con i cable e con grossi lineari, e ti dico che questo non c'ha né ritorno, innanzitutto non c'ha ritorno di RF, non c'ha disturbi e non c'ha niente, perché appunto è testato proprio sui cable, puoi invertire la polarità e c'ha un sensore dove si blocca per 3 minuti e dopo si riprende. C'ha tutto quello che tu vuoi. Se tu parli di vecchi switch che non esiste nulla, so quella cosa contigo, ma sono molto, ma molto migliorati e all'avanguardia pure. L'ho comprato anche da poco, quest'estate per un amico mio, un di quelli della tecnocomunicazione, ho pagato 50 euro da 25 ampere, non dico che non funzionano bene, vanno bene, però in uso prolungato, gravoso, in quelli della cosa trasformatore sono più resistenti, dico solo quello lì. Poi mi dirai, il tuo c'ha come quell'altro, rientro in radiofrequenza il filtro, c'ha l'inversione polarità protetto, c'ha più precisione nell'erogazione della corda, della tensione, tutto quello che vuoi, è molto più preciso, più stabile, niente da dire, però se tu lo sovraccarichi appena tornami la risposta e te lo faccio vedere, lo mostro alla gente che ha bisogno di tirare a passo, perché quando ci sono sovraccarichi quelli lì risentono molto, ma molto di più, oppure sbalzi di tensione, fulmini temporali, risentono molto di più di quelli a cosa, al trasformatore, perché al trasformatore non c'è niente, c'è solo trasformatore, condensatori e un integrato che ti abbassa la tensione e butti, stabilizza la tensione, mentre quelli a cosa, c'è tutto un circuito, lavorano su frequenze particolari e ti creano col tempo problemi, a meno che non lo usi come lo usi tu, con potenze normali, senza esagerare, uso normale che può durare 150 anni, però considera i computer tu, quanti problemi ne hanno alimentato dei computer? Deve essere sempre ventilato, perché sennò cacchio, quell'integrato che c'è dentro ti parte, non va fuori da me, peso dei 3.000 problemi. E tutti i problemi io li ho visti sempre con gli switch. Con quelli a coso raramente li vedi, magari ti vedi un po' scaldato, mi hanno chiamato. Si sta parlando dei switch del computer, che sono tutto un altro sistema, non c'entrano niente con questo. Voi dimenticate quei switch dei codici e pensate a un'altra tecnologia, a parte questo c'è la moneta. chiudendo un attimino che mi hanno chiamato. Dai, ciao a tutti, un buon proseguimento. Ciao Robert, buona cena. L'avete sentito? Cappa, l'ultimo passaggio, che siete sovramodulati con Pierpaolo. Comunque saluto a tutti, dai, che poi mi vuole andare a pazzia, mi è arrivata la pizza, non so se si è sentito dalla bambina, comunque buon proseguimento a tutti, ciao ciao, ci sentiamo eventualmente domani, ciao ciao. Ciao Robert, ciao. Avanti Pierpaolo. Avanti Antonio. Aspetta un attimo, adesso stiamo buttando la destra e switch. Beh, non è vero, è stato come dici tu su apparecchi, e tante volte è anche la fissazione mi che serve certe cose, perché io li ho sempre usati con tanti apparecchi e i switch mi vanno bene. Io mi ho preso quello da 38 perché mi piaceva più esteticamente, aveva gli strumenti più grandi e per la mia stazione che ha, diciamo, anche gli altri apparecchi che sono grandi, gli altri strumenti andava meglio quello grande, però vanno bene tutti. Anche quello della, come si chiama, quella trasformatore, come si chiama, va 10 ampere e non si abbassa la luce per niente. Per elettronica io faccio il coso, la base, sto leggendo poi, questo qua già, oltre che l'inversione della polarità, sovraccarico, se tu sovraccarico, ma figurati che io non sono raccaricato e non praticamente quello dell'apparato di giù sopra l'alimentatore, con l'apparato di sopra ce l'ho sotto, in modo che non abbiano contatto diretto. Siccome te li avvertiti, capì? No. Sopra noi mi avevamo detto di fare così proprio per evitare il ritorno di RF, eccetera, eccetera, capito? E avevo fatto così, avevo la torretta e non da, perché vi faceva fischiare un microfono a me, la verità, un microfono, quello che adesso c'è, me lo facevano fischiare, allora avevo fatto così per quello. Stasera c'è poca gente per qua. in testa Luca e tra Daniele e tra qualche uno. No, ma Luca già c'è, Luca, se ci vuole rispondere. Che fai, a fare? Cosa? Beh, 30 secondi che cambio radio anch'io, là. Pensate di cambiare piede, perché non c'è più l'ultima branchino, quindi mi tocca sostituire il piede. Come può mettere per fare altro strumento perché non mi segnava le stazionali? Per vedere, invece anche con l'altro fa così. Oh, vedi, un millesimo. Con la prima partita la giri a frezza benissimo il microfono. Come qua? Capretto, per ho detto la prima partita è la già frazzata. La già frazzata? Stavo a chiedere una cosa a mia moglie. Dimmi per pace. No. Mi stavi dicendo, mi ha detto una cosa a mia moglie e non ti ho capito. Sì, mi ha distratto Antonio. Ho detto, cioè, quella di ieri era Basilio, non hai cambiato un'altra voce. No, quella di ieri. No, era di quelle bastarde che c'era. E la mettono tanto per favore che funziona, dopo il giorno dopo non ci sono più. Tu dici che vale una carica fasulla che pone con la sua infatti non viene più. Questa che ho messo era un po' scarica, non era carica carica, era della VP5 che adesso c'ho da parte, è un po' scarica. Cos'è? Il coso, il dettaglio? M90 5. Ma appena chiudo i soldi me ne compro un altro, già mi piace troppo questo microfono. A me esteticamente, per la verità, l'ho avuto e non mi piace. Esteticamente sembra un giocattolino. Come lo bisognerebbe fare per essere migliore? Altro che giocattolo, Guarda, il track si sente. Si sente. Quel cursore giallo non mi piace. Ma... esteticamente in effetti è un po' così, ma come prestazioni... quando li paghi su che devi fare non ce n'è per nessuno, andava a vivo, perché fa il mare, va bene, tutto quanto, hai capito? Sì, ma le prestazioni di quel microfono in sé non sono buone, devi modificarlo per riuscire bene, perché se no parevo un casale. Vabbè, si fa qualche piccola cosa, dai, se si fa, ma comunque, cioè, è un bel microfono, dai. Quando gli fai quella piccola cosa non ce n'è per nessuno. Cioè come che tu pigli un MP più 4, più 5, sì, esce bene. Ma non c'è come dici. Cosa, ma no, quando tu lo modifichi ti è tutta un'altra musica, così è visto. MP4 e più 5 sono usciti solo per amplificare appena la voce, ma per lasciarla chiara, capito? Quella capsula lì è ceramica. Quale? Quella dell'MP5. Ho pagato. Però questa qui non è chiara. Sì. Quella lì, il telefono. Non è. Non lo so. Te lo so chiedo perché non lo so. Mi pare di sì. Io ne ho un po' di capsule, bisognerebbe provare, ma non mi va il caso pesare bene. L'altro giorno mi sono bruciato, mi è scappato il saldatore, mi ha preso il braccio sopra il tatuaggio. Meno male non ho bisogno, tanto che se l'ho illuminato. Devi stare attento, devi stare, non vedere la cosa pappugiato. Che saldatore è usi tu? Quelli piccoli a punta fila. No, ce l'ho che sopra appoggiato. Mi è scappato la mano. Gappa, ci vuole molta attenzione, che se ti sei bruci, se ti bruci, mi ha fatto il fosso, buco mi ha fatto, mi ha mangiato la carne però. Ha creato, Oh, fra semate. Allora, sono proprio non esegui più questo guardatore. Sì, già c'ho le punte nuove, tutto quanto. C'ho proprio la base, con la spugnetta bagnata, tutto quanto. Gaffa, gaffa. No, adesso abbiamo anche noi, saldatura, Puglia. Questo è più di uno grande, uno piccolo. Le saldature bene, cioè... già ci sono, già. Ah, per i circuiti comunque ci vogliono quelli ad aria calda, che sono migliori. C'è uno stagno con l'aria calda. L'aria calda? Ah. Davvero, quello mi mancava. E andrei comparato. No, io non ce l'ho, lo usano i tecnici per i circuiti stampati, no? Adesso lo compro. E quello devi avere la stazione, saldata. Vabbè, assai cosa. Non lo so, non ho la minima idea, ma penso di sì, penso che costa un po', qui c'è tutto un macchinario dietro. E al parco lo conosci, però? No, io l'ho visto da Massimiliano, credo, da quel tecnico che c'è pronto a Scarpari. Ha usato per un circuito, e usa l'aspiratore, poi aspira, poi salda a caldo, l'aria a caldo. Non sbavare, non ti sbava niente, perché già se vedo che i circuiti stampati, se è una saldatura un po' più grossa, ti va sull'altra corsia e ti fa fare il corto. Ma quello sta anche alla precisione che si sta saldando, e dal tipo di stagno che usi anche. Se per esempio nei quelli non micro saldature usi uno stagno molto, molto sottile, usi uno 0,020 o uno 0,19 e la saldatura si precisiona lo stesso. E lo stagno grosso si può usare solo per fare pietre, là. Per altre cose, ma perché questi stampati, insomma, ci deve essere la mano anche di chi la fa. Beh, quello sì, senza ombra di dubbio, ma con la strumentazione documentazione più precisa, il lavoro esce più bene. E poi ci hanno sarebbero comprati tecnici, perché c'è tutta una stazione saldante per qua dietro, ma non è che sia solo il saldatore, noi attaccati a macchinari. Ma come diciamo che quelle cose lì sono, non è una questione di meno, vuol dire che si lascia indietro, si lascia la bravura di chi lo fa, perché come anche i robot che usano per fare tutte le cose, precisione, eccomi qua. Non è per infilare sempre il dito nella piaga, ma sono come i dottori di adesso, che operano tutti con robottino, con microchirurgia invasiva, e le cose sono più precise per quello. Vabbè, è normale. Io ho visto delle operazioni su internet, per fare in diretta, perché sono andato a vedere l'operazione che fanno per il coso, la cataratta, e aprono praticamente, fanno un taglietto sottile sottile, tolgono la cataratta e ti mettono la lente. E appunto, adesso è tutto facile, adesso la Maria, io lo fanno vedere a casa, la devastazione che fai casa. Adesso la tecnologia è una scienza avanzata. Che ore sono? Che nome me lo dici? Perché andiamo a digare, là. Sentiamo dopo, per padre. Mangiata per te. Già fatto. Ah, ecco perché sei tranquillo. Va, io vado, mandico il ritorno. Se ci siete, sono resto qui là. Tanto oggi è sabato. Qua siamo qua. Sabato bianco. Stiamo valutando ancora, già. Valuta. Aspetta un attimino che tanto vado a mangiarmi questo papuschi. Ma prego, ancora entrare. Ci sentiamo qua a mangiare, va. Io per me. Uscire sino a martedì, capito? Adesso non vedo, dai. non c'è più quella là, quella famosa. Le Sony? No, che sei insieme. Piccole e piccole. Quelle piccole che si sentono, io preferisco quelle scuffie, se la prendo carne la reti che demande. Ma le ho perse, penso, buzzo. Penso di averle perse. No, ma quelle vanno bene, io uso quelle, uso. E mi fanno bene così, no, non mi interessa a me che c'è cosa. Ma che ti va di... mamma mi sta dando un bel orecchio, ha detto, ma ti va deve dire che c'è cosa, ma ho segnato. Ma non è che l'auricolare me ne escono dalle orecchie, mi danno fastidio per quello. A me no, le entro bene, no, non me ne esco. Dipende anche dalla conformazione dell'orecchio, Che ho sbagliato, oh, non ti va bene mai nulla, tu, io devo va. Nulla, allora devi andare. No, guarda quello che va bene a lui, alla sua persona, non è che deve fare le cose che fanno gli altri, no? Le faccio come mi conviene a me, nel senso che se a me mi danno fastidio, quelle mi pido le altre. Ma basta che le sono di piccole altro che hanno fastidio. Basta, siccome a me mi vanno bene quelle piccole, come quelle che amica e mica fatto, come quelle che si ha fatto. Così mi vanno bene a me. Ce li ho quelle là, mamma mia, non li sopporto, ci ho provato ma non le sopporto. Io ho quello del cellulare adesso che ci peso, però sono un attacco più fino, attacco proprio fino. Non vanno bene. Io per sentire forse bisogna aprire. Devo sentire giù gli ottinotto. No, c'è una specie di tastino, quando ti telefono appare il tastino per sentire, capito? Che ha pagato, no, vabbè, non avevo le cose, non può fare dei gruppi. Io lo vedo la compora, ma penso che sono tutti picchi, Sì, hai. E ci sono anche da città mercato. Pagata, ce ne sono tutti i tizi, poi per l'apparecchio vanno bene, cupe che non costano molto. E vabbè, io già le voglio buone, le voglio che si senta bene, perché vuol dire molto la cuffia, quando ci sono persone lontane che senza cuffia non senti, con le cuffie magari le senti. Vabbè. Eia. No, ma io già le sento bene. E avevo un paio così che... la prima volta facevano una cosa, vibravano un po' e poi andava bene. Brava! Via, mi fa graffiava un pochino, poi dopo quando si rimettevano a posto. Bravia, morbo di Alzheimer. Evidentemente come stava ferma, magari hanno bisogno di vibrare un po' con le membrane che ci sono piccole. Come ti cadeva, ma si aggredisce. Poi quello lì hanno il filo fino, ma le pure fine come il filo delle cuffie, la vedono, non le vedono fine. Dovrebbe esserci. Intanto a me non mi serve molto lunga la pronta. Dovrebbe esserci. Come ti chi sarebbe attaccato il cellulare, da fino a grande. Già. Già bisarane. C'è un negozio che hanno aperto non da molto, che fa angolo. Allora, praticamente se è una piazza d'armi, vai dritto, no? Sì. Allora via 4 novembre. Fa angolo via 4 novembre con l'altra via, non mi ricordo che via sia, se via Torres o che cos'è. E io volevo comprare di Sennheiser. No, 70 euro. Se può fa. Cos'è? Se può fa. Se può fa? Via. Ehi, dammi. Dammi io. Già, taglio più preso che ha detto, ma che sono farmacista. Farmacista è questo, è in angolo. No, non è farmacista, vende cuffie. Grazie, ma la macchina, tutti i zocchi e cosa. esatto, esatto, quello lì. Esatto, ragazzi, ho capito chi è. Mi fa già lo sai. Ma c'ha anche la professionale. Già lo so. A mani di due caro. Le cuffie costano. Le Messenger costano 70-75 se non mi ricordo quanto avevo pagato. Quelle che c'è per il coso. Sono quelle medie, poi ci sono quelle che costano ancora di più di quelle. Io preferisco più la Sony. Ah, le Sennheiser come cuffie. Se tu guardi G usano quasi tutte le Sennheiser. Che tu mi stai a segnare comunque 9, quindi ti sento Io sono qui all'uscita di Canica, Livio Canica. Senti ancora, sì. Franco, mi senti? Sì, ti sento bene. Io sono all'altezza di Città Mercato. Al capo, il segnale è sceso un pochettino a 5. Adesso provo un attimino ad accendere, vediamo cosa succede. Mi passa che ti ho perso. Senti? Adesso è benissimo. Stavo dicendo che provavo ad accendere per vedere un attimino cosa cambiava, adesso è tutto acceso. E sei abbastanza forte, eh? Ho acceso l'aggeggio, adesso provo a spegnerlo, vediamo cosa dice. Ma sicuramente se lo spengo ci perdiamo un po'. Sì, sono attratto. Senti Giovanni, mi senti? Mi senti? Ti vedo piccolo piccolo. Senta Giovanni, mi senti? Sento due led accesi ma non ti sento.